Ma anche se gli scavi condotti in Turchia hanno prodotto alcuni dei dati più ricchi su questa antica civiltà, la pianura dell'Anatolia meridionale non è che una delle numerose aree in cui sono state documentate società agricole stanziali che adoravano la dea. Infatti, all'incirca nel 6000 a.C., non solo la rivoluzione agricola era un fatto compiuto, ma società dedite all'agricoltura cominciarono a espandersi in territori fino ad allora periferici. Da una parte nelle pianure alluvionali della Mesopotamia, in Transcaucasia e Transcaspia, e dall'altra nell'Europa sud-orientale. Inoltre, talvolta il contatto avveniva via mare, come a Creta e a Cipro, e ogni volta i nuovi arrivati giungevano con un'economia neolitica pienamente sviluppata. In breve, sebbene soltanto 25 anni prima per gli archeologi la Sumeria era ancora la culla della civiltà, e questa lo è ancora nell'opinione prevalente tra la gente comune, oggi sappiamo che non c'è stata solo una, ma tante culle, tutte risalenti a diversi millenni prima di quanto si ritenesse in precedenza, al Neolitico. Come scrisse Mellart, la civiltà urbana, che è stata a lungo ritenuta un'invenzione della Mesopotamia, ha predecessori in Palestina e Anatolia, che per molto tempo sono stati considerati arretrati. Inoltre, ora conosciamo un altro fattore molto importante per lo sviluppo iniziale della nostra evoluzione culturale. In tutti i luoghi dove avvennero i primi grandi progressi della nostra tecnologia materiale e sociale, per usare la frase che Merlin Stone ha immortalato nel titolo di un libro, Dio era una donna. La nuova consapevolezza che la civiltà è molto più antica e diffusa di quanto non si ritenesse in precedenza sta comprensibilmente producendo una quantità di nuovi scritti da parte di studiose e studiosi, con un intenso riesame delle teorie archeologiche del passato. Ma il fatto più straordinario, ovvero la presenza in queste antiche civiltà di un'ideologia ginecentrica, non ha suscitato grande interesse tranne che tra le studiose femministe. Se gli studiosi non femministi ne parlano, di solito lo fanno solo incidentalmente. Persino quelli come Mellart, che vi accennano, in genere lo fanno solo per una questione di significato squisitamente artistico e religioso, senza esplorarne le implicazioni sociali, culturali ed economiche. Insomma, l'idea prevalente è ancora che il dominio maschile, la proprietà privata e lo schiavismo siano sottoprodotti della rivoluzione agricola. È un'opinione molto radicata. Nonostante l'evidenza che, al contrario, l'uguaglianza tra i sessi e tra tutta la gente nel Neolitico era una norma generale. Nei capitoli seguenti andremo alla ricerca di questa affascinante prova, ma prima dobbiamo rivolgerci a un'altra importante area, dove di recente le vecchie nozioni dell'archeologia sono state demolite da nuovi ritrovamenti. L'Europa antica. Alcune delle testimonianze che maggiormente rivelano cosa fosse la vita durante le migliaia d'anni di cultura umana, in precedenza sconosciuti, ci sono arrivate da un luogo assolutamente inaspettato. Per molto tempo si era accettata la teoria che la mezzaluna fertile del Mediterraneo fosse la culla della civiltà. L'Europa antica era sempre stata considerata soltanto un luogo culturalmente arretrato che in seguito fiorì brevemente nelle civiltà minoica e greca, come dire soltanto in virtù di influenze orientali. Ma oggi l'immagine che si sta delineando è molto differente. Proponiamo una nuova denominazione, civiltà dell'antica Europa, riconoscendo l'identità collettiva e le conquiste di gruppi culturali dell'Europa sudorientale neolitico-calcolitica, scrive l'archeologa dell'Università di California Maria Gimbutas nel Linguaggio della Dea. Quest'opera innovativa elenca e analizza centinaia di ritrovamenti archeologici in un'area che pressappoco si estende dall'Egeo e dall'Adriatico, isole comprese, verso nord fino alla Cecoslovacchia, alla Polonia meridionale e all'Ucraina occidentale. Gli abitanti dell'Europa sudorientale 7000 anni fa non erano certo dei primitivi abitanti di villaggio. Nel corso di 2 millenni di stabilità agricola, il loro benessere materiale era costantemente aumentato grazie allo sfruttamento delle fertili valli fluviali, riferisce la Gimbutas. Si coltivavano grano, orzo, veccia, piselli e altri legumi e si allevavano tutti gli animali domestici attualmente presenti nei Balcani, tranne il cavallo. La tecnologia della ceramica e le tecniche di lavorazione dell'osso e della pietra erano avanzate e dal 5500 a.C. venne introdotta nell'Europa centro-orientale la metallurgia del rame. Il commercio e le comunicazioni, che si erano ampliati nel corso dei millenni, devono avere prodotto una straordinaria interazione e un impulso alla crescita culturale. L'uso di barche a vela è testimoniato a partire dal VI millennio dalle riproduzioni incise su ceramica. All'incirca tra il 7000 e il 3500 a.C., gli antichi europei svilupparono una organizzazione sociale evoluta che comportava una specializzazione dei mestieri. Crearono complesse istituzioni religiose e statali, usarono metalli come il rame e l'oro per ornamenti e attrezzi. Svilupparono addirittura quella che sembra fosse una forma rudimentale di scrittura, come osserva la Gimbutas. Se per civiltà intendiamo la capacità di un dato popolo di adattare il suo ambiente e di sviluppare arti, tecnologia, scrittura e relazioni sociali adeguate, è evidente che gli antichi europei raggiunsero un livello alto di civiltà. Attualmente, l'immagine degli antichi europei che la maggior parte di noi si è fatta è quella di terrificanti membri di tribù barbare che continuavano a premere verso sud e che alla fine riuscirono a vincere persino i romani, arrivando al sanguinoso saccheggio di Roma. Per questo motivo, una delle caratteristiche più notevoli e che danno più da pensare dell'antica società europea, rivelata dagli scavi archeologici, è quella della sua natura essenzialmente pacifica. Gli antichi europei non cercarono mai di vivere in posti scomodi, per esempio su colli alti e scoscesi, come fecero in seguito gli indoeuropei, che costruirono cittadelle in luoghi inaccessibili, circondando spesso i loro stanziamenti collinari con ciclopiche mura in pietra, scrive la Gimbutas. Gli insediamenti degli antichi europei venivano scelti in base alla bellezza della posizione, alla bontà di acqua e terreno e alla disponibilità di pascoli per gli animali. Le aree di insediamento di Vinza, Butmir, Petresti e Cucuteni, in Romania, sono notevoli per i bellissimi scorci sul paesaggio, non per il loro valore difensivo. L'assenza caratteristica di massicce fortificazioni e di armi da lancio dimostra il carattere pacifico della maggior parte di queste popolazioni amanti delle arti. Inoltre, tanto in Romania quanto nelle aree turche di cui abbiamo parlato, che non mostrano segni di danni causati da guerre per un periodo di tempo di oltre 1500 anni, le testimonianze archeologiche indicano che il dominio maschile non era la norma. Ci sono indizi di una divisione del lavoro tra i sessi, ma non di una superiorità dell'uno sull'altro, scrive la Gimbutas. Nel cimitero 53 di Vinza non si distingueva quasi nessuna differenza tra la ricchezza degli addobbi delle tombe maschili e quelle femminili. Per quanto riguarda il ruolo della donna nella società, le testimonianze di Vinza suggeriscono una società ugualitaria e chiaramente non patriarcale. Lo stesso vale per la società di Varna. Non riesco a cogliere alcuna gerarchizzazione in una scala di valori patriarcale, maschile e femminile. Insomma, qui come a Çatalhöyük, le testimonianze indicano una società generalmente non stratificata e fondamentalmente ugualitaria, senza marcate distinzioni di classe o di sesso. Ma la differenza è che nel lavoro della Gimbutas la cosa non viene accennata di sfuggita. Essa ci viene fatta notare più e più volte da questa ammirevole innovatrice dell'archeologia che ha avuto il coraggio di sottolineare ciò che tanti altri preferiscono ignorare. In queste società non c'è traccia della ineguaglianza sessuale che ci hanno insegnato a considerare parte della natura umana. Il corredo delle tombe di praticamente tutti i cimiteri che si conoscono dell'antica Europa rivela una società ugualitaria uomo-donna, scrive la Gimbutas, che rileva diversi indizi che dimostrano come quella dell'antica Europa fosse una società matrilineare, vale a dire in cui discendenza ed eredità si tramandano per via materna. Inoltre, la studiosa fa notare che le testimonianze archeologiche fanno chiaramente intendere che le donne svolgevano un ruolo fondamentale in tutti gli aspetti della vita dell'antica Europa. Nei modelli di templi e di altari domestici e nei resti dei templi veri, scrive la Gimbutas, sono ritratte donne che supervisionano la preparazione e lo svolgimento di rituali dedicati ai vari aspetti e alle diverse funzioni della dea. Si dedicava un'enorme energia alla produzione di accessori per il culto e di doni votivi. I modelli di tempio mostrano la macinazione del grano, la cottura del pane sacro. Nei laboratori dei templi, che di solito costituivano una metà dell'edificio o occupavano il piano sottostante il tempio vero e proprio, le donne fabbricavano e decoravano un gran numero di vasi diversi adatti ai vari riti. Vicino all'altare del tempio si trovava un telaio verticale, su cui probabilmente venivano tessuti gli indumenti sacri e gli addobbi del tempio. Le creazioni più sofisticate dell'antica Europa, i più bei vasi, le più belle sculture, eccetera, ancora esistenti, erano opera di donne. L'eredità artistica lasciataci da queste antiche comunità, in cui il culto della dea era al centro di tutti gli aspetti della vita, continua a venire alla luce grazie agli scavi archeologici. Dal 1974, anno in cui Maria Gimbutas pubblicò per la prima volta un compendio dei ritrovamenti provenienti dagli scavi da lei stessa effettuati e da oltre 3.000 siti diversi, sono state scoperte non meno di 30.000 sculture in miniatura d'argilla, marmo, osso, rame e oro. Oltre a ingenti quantità di vasi e rituali, altari, templi e dipinti, sia sui vasi che sui muri dei santuari. Tra questi ritrovamenti, le vestigia più eloquenti di questa cultura neolitica europea sono le sculture. Esse forniscono informazioni su aspetti della vita altrimenti inaccessibili all'archeologa, la foggia dei vestiti e persino le acconciature. Ci consentono una visione diretta delle immagini mitiche dei riti religiosi dell'epoca. E ciò che rivelano queste sculture, come in precedenza le caverne del Paleolitico e successivamente i siti neolitici delle vaste pianure dell'Anatolia e del vicino Oriente, è che anche qui le statuette e i simboli femminili occupavano una posizione di preminenza. Come se non bastasse, esse ci danno una testimonianza sorprendente che indica il passo successivo nell'evoluzione estetica e sociale di questa antica civiltà scomparsa, poiché per stile e per tema, molte di queste statuette e simboli femminili sono incredibilmente simili a quelli di un luogo che viene ancora oggi visitato da centinaia di migliaia di turisti, praticamente ignari di ciò che stanno realmente guardando, la leggendaria isola di Creta, ove successivamente fiorì la civiltà dell'età del bronzo. Prima di dedicarci a Creta, l'unica grande civiltà che si conosca in cui il culto della dea sia sopravvissuto fino in epoca storica, esamineremo più da vicino quanto possiamo desumere dai resti archeologici del Neolitico sulla direzione iniziale dell'evoluzione culturale occidentale e sulla sua importanza per il nostro presente e per il nostro futuro. 2. Messaggi dal passato, il mondo della dea. Che tipi erano i nostri antenati e le nostre antenate preistoriche che adoravano la dea? Com'era la vita durante i millenni della nostra evoluzione culturale che precedettero la storia documentata o scritta? Inoltre, può quell'epoca insegnarci qualcosa di importante? Poiché le popolazioni del Paleolitico e del successivo più avanzato Neolitico non ci hanno lasciato resoconti scritti, possiamo soltanto dedurre, come scienziati trasformati in Sherlock Holmes, il modo in cui pensavano, sentivano e si comportavano. Del resto, quasi tutto ciò che ci è stato insegnato sull'antichità si basa su congetture. Anche i documenti in nostro possesso delle prime culture storiche, come quelle di Sumer, Babilonia e Creta, sono, nella migliore delle ipotesi, scarsi e frammentari e costituiti in gran parte da inventari di beni e di altri argomenti mercantili. E anche i successivi resoconti più dettagliati sulla preistoria e la storia antica, scritti in epoca greca classica o ai tempi dei romani, degli ebrei e dei cristiani, sono principalmente basati sulla deduzione, per di più senza l'aiuto dei moderni metodi archeologici. La maggior parte di ciò che abbiamo imparato a figurarci come nostra evoluzione culturale è in realtà frutto di un'interpretazione. Inoltre, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, questa interpretazione è stata spesso e volentieri la proiezione di un'idea del mondo, tuttora prevalente, di tipo dominatore. Consisteva in conclusioni tratte da dati frammentari, interpretati in modo da conformarsi al modello tradizionale della nostra evoluzione culturale, vista come una progressione lineare dall'uomo primitivo al cosiddetto uomo civile. Questi, nonostante le molte differenze, avevano in comune il desiderio di conquista, di sterminio, di dominio. Grazie allo scavo scientifico degli antichi siti, gli archeologi negli ultimi anni hanno ottenuto una grande quantità di informazioni fondamentali sulla preistoria, in particolare sul Neolitico, l'epoca in cui antenati e antenate si organizzarono per la prima volta in comunità, che si sostenevano con l'agricoltura e l'allevamento del bestiame. Questi scavi, analizzati in maniera differente, forniscono l'archivio per una rivalutazione e una ricostruzione del nostro passato. Un'importante fonte di dati viene dagli scavi degli edifici e del loro contenuto: abiti, gioielli, cibo, mobilio, contenitori, attrezzi e altri oggetti di uso quotidiano. Estremamente proficuo è anche lo scavo dei luoghi di sepoltura, che rivelano non solo gli atteggiamenti della gente verso la morte, ma anche verso la vita stessa. E a questo patrimonio di dati si va ad aggiungere la nostra più ricca fonte di informazione sulla preistoria, cioè l'arte. Anche quando esiste una tradizione letteraria scritta, oltre a quella orale, l'arte è una forma di comunicazione simbolica. La ricca arte del Neolitico, i dipinti murali che ritraggono la vita quotidiana o importanti miti, la statuaria di immagini religiose, i fregi che descrivono i rituali, oppure semplicemente le decorazioni dei vasi, le figure sui sigilli o le incisioni sui gioielli, ci dice molto su come questa gente viveva e moriva. E la dice lunga anche sul loro pensiero, perché l'arte del Neolitico è veramente una sorta di linguaggio, di codice, che esprime simbolicamente il modo in cui la gente di quel periodo sperimentava e a sua volta modellava ciò che definiamo realtà. E se lasciamo che questo linguaggio parli da sé, senza proiettare su di esso dei modelli di realtà invalsi, esso ci racconta una storia affascinante e in confronto a quella convenzionale molto più promettente delle nostre origini culturali. L'arte del Neolitico. Una delle cose più sorprendenti dell'arte del Neolitico è ciò che essa non ritrae. Ciò che un popolo non descrive nell'arte può essere altrettanto rivelatore di ciò che esso ritrae. Al contrario dell'arte dei periodi successivi, nell'arte neolitica si nota una marcata assenza di immagini che idealizzino la potenza armata, il potere basato su crudeltà e violenza. Non esistono immagini di nobili guerrieri o scene di battaglia. E non c'è traccia di eroici conquistatori che trascinano prigionieri in catene o di altre prove di schiavismo. Un'altra netta differenza di queste società neolitiche adoratrici della dea, anche solo rispetto ai reperti dei loro primi e più arretrati invasori a dominio maschile, è la manifesta assenza di sontuose sepolture di capi tribù. E diversamente dalle successive civiltà a dominio maschile, come quella dell'Egitto, non c'è traccia dei potenti regnanti che al momento della propria morte portavano con sé nell'aldilà, sacrificandoli, altri esseri umani non influenti come loro. E, altra differenza rispetto alle successive società a modello dominatore, non troviamo grandi depositi d'armi o altre tracce che indichino un'intensa applicazione della tecnologia, del materiale e delle risorse naturali alle armi. La deduzione che questa fosse un'epoca davvero singolare, sicuramente molto più pacifica, viene rafforzata da un'altra assenza, quella di fortificazioni militari. Queste cominciano a fare la loro comparsa molto gradualmente, probabilmente in risposta alle pressioni delle bellicose bande nomadi che provenivano da aree periferiche della terra che esamineremo più avanti. Nell'arte neolitica, né la dea né il suo figlio consorte portano gli emblemi che abbiamo imparato ad associare alla potenza: lance, spade o folgori, simboli di un sovrano terrestre o di una deità che esige obbedienza uccidendo e mutilando. Inoltre, nell'arte di questo periodo, sorprendentemente, mancano le immagini di governante governato, padrone sottoposto, così tipiche delle società dominanti e dominatrici. Ciò che si trova dappertutto, nei templi e nelle case, nei dipinti murali, nei motivi decorativi dei vasi e nelle sculture a tutto tondo, nelle statuette d'argilla e nei bassorilievi, è un ricco spiegamento di simboli presi dalla natura, associati al culto della dea Essi testimoniano il rispetto e lo stupore per la bellezza e il mistero della vita. Ci sono elementi apportatori di vita come il sole e l'acqua, per esempio, i motivi geometrici di forme ondeggianti, detti greche, che simboleggiavano il fluire delle acque. Incisi su di un altare antico europeo in Ungheria che risale all'incirca al 5000 a.C. Ci sono le gigantesche teste di toro in pietra con corna ricurve dipinte sui muri dei templi di Çatalhöyük, porcospini in terracotta dalla Romania meridionale, vasi rituali a forma di femmina di cervo dalla Bulgaria, sculture a forma d'uovo in pietra con facce di pesci e vasi per il culto a forma di uccello. Ci sono serpenti e farfalle, simboli di metamorfosi, che in epoca storica continuano a essere identificati con i poteri di trasformazione della dea, come nella impressione di un sigillo di Zacro a est di Creta, che ritrae la dea con le ali di una farfalla occhiuta. Anche la più tarda ascia doppia cretese, che ricorda le zappe usate per sgombrare i terreni coltivabili, era una stilizzazione della farfalla, come il serpente che muta la pelle e rinasce. Ella faceva parte dell'epifania della dea, era uno dei simboli dei suoi poteri di rigenerazione. E ovunque, nei dipinti murali, nelle statue, nelle statuette votive, troviamo immagini della dea, nelle sue varie incarnazioni di vergine, progenitrice e creatrice. Ella è la signora delle acque, degli uccelli e degli inferi, o semplicemente la madre divina che culla la figlia e il figlio tra le proprie braccia. Alcune immagini sono talmente realistiche da sembrare animate, come il serpente strisciante su di un piatto ritrovato in un cimitero dell'inizio del V millennio a.C. nella Slovacchia occidentale. Altre sono così stilizzate da essere più astratte persino rispetto alla nostra arte più moderna. Tra queste, il grande vaso o calice sacramentale stilizzato a forma di dea assisa in trono con incisi ideogrammi provenienti dalla cultura Tissa dell'Ungheria sudorientale. La dea dalla testa a colonna con braccia conserte dalla Romania del 5000 a.C. e la statuetta in marmo della dea da Tell Hashmach nella Bulgaria centrale, con braccia stilizzate e un esagerato triangolo pubico che risale al 6000 a.C. Ci sono anche immagini che possiedono una misteriosa bellezza, come il piedistallo di terracotta antico di 8000 anni, provvisto di corna e con seni femminili, che in qualche modo ricorda la statua greca classica nota come Vittoria Alata, e i vasi dipinti di Cucuteni in Romania, con le loro forme aggraziate, i ricchi disegni geometrici a spira di serpente. Altre, come le croci incise sull'ombelico vicino ai seni della dea, suscitano interessanti domande sul significato che avevano in origine alcuni dei nostri simboli più importanti. Un senso di fantasia avvolge molte di queste immagini, un'atmosfera di sogno, a volte bizzarra, che evoca rituali arcani e miti a lungo dimenticati. Per esempio, in una scultura di Vinza, una donna con un bambino in braccio, entrambi col volto d'uccello, sembrano essere i protagonisti mascherati di antichi riti, probabilmente nell'atto di rappresentare una storia mitologica su una dea uccello e il proprio figlio o figlia divina. Analogamente, una testa di toro con occhi umani in terracotta, proveniente dalla Macedonia del 4000 a.C., fa pensare al protagonista mascherato di un altro mito e rituale neolitico. Alcune di queste figure mascherate sembrano rappresentare potenze cosmiche benevole o minacciose. Altre suscitano effetti umoristici, come l'uomo in maschera con i calzoni imbottiti e la pancia scoperta, proveniente dalla Fafcos del V millennio a.C., che la Gimbutas descrive come un probabile attore comico. Ci sono anche quelle che la studiosa definisce uova cosmiche. Si tratta, anche in questo caso, di simboli della dea, il cui corpo è il calice divino, che contiene il miracolo della nascita e il potere di trasformare la morte in vita tramite la misteriosa rigenerazione ciclica della natura. Il tema dominante dell'arte neolitica sembra senz'altro essere l'unità di tutte le cose nella natura, personificata dalla dea. La suprema forza che governa l'universo è una madre divina che dà vita alla sua gente, fornisce conforto materiale e spirituale e su cui si può fare affidamento anche al momento della morte, quando ella si prenderà cura dei suoi figli, riportandoli nel proprio grembo cosmico. Per esempio, nei templi di Chatalhuk troviamo rappresentazioni della dea gravida o mentre partorisce. Spesso è accompagnata da animali poderosi come leopardi e in particolare tori. Come simbolo dell'unità di tutta la vita nella natura, in alcune raffigurazioni è lei stessa in parte umana e in parte animale. Persino nei suoi aspetti più oscuri, quelli che gli studiosi definiscono ctoni o sotterranei, viene comunque ritratta come una parte dell'ordine naturale, proprio come tutta la vita ha origine da lei. A lei tutto ritorna al momento della morte, per poi rinascere nuovamente.